giallo e nero di Daniele Biacchessi. 14 luglio 2006, prima pagina del quotidiano L'Avvenire. Scrive il giornalista Emilio Randacio. L'ultimo contatto con la famiglia risale a mercoledì 5 luglio. Il finanziere Gianmario Roveraro chiama la moglie Silvana Canepa con il suo cellulare. Sollecita un versamento bancario da 1 milione di euro. Il beneficiario è una fiduciaria con sede in Svizzera. Mi servono per concludere un affare immobiliare, dice con tono ansioso. Il finanziere sostiene di essere in Austria. A quel punto la moglie chiama i carabinieri. Roveraro tenta una soluzione alternativa e chiama al telefono la sua segretaria. Dà il via libera a un'operazione finanziaria. Gli estremi del destinatario spediti via fax, la sua firma in calce. Ma l'operazione è già bloccata dalla Procura della Repubblica di Milano. Da Federconsorzi a Parmalat si snoda attraverso grandi vicende nazionali la parabola del finanziere Gianmario Roveraro. Gianmario Roveraro nasce ad Albenga nel 1936. Laureato in economia, cattolico rigoroso, Roveraro diviene membro dell'Opus Dei nel 1963. Il manager inizia l'attività professionale nel 61 presso La Centrale, per passare allo studio di agenti di cambio Foglia Albertini e quindi a Roma alla Ital Finanziaria. Nel 1972 rientra a Milano con la Sade, ma la svolta professionale arriva nel 1974 con la nomina ad amministratore delegato della SIGE, società italiana per imprese e gestione, braccio operativo dell'IMI. Nel 1987 fonda la Acros. La finanziaria organizza la quotazione in borsa della Parmalat di Calisto Tanzi con una complessa operazione. Raffaella Calanda segue per Radio 24 le tracce del finanziere scomparso. Due telefonate, poi il silenzio. Da 9 giorni Gianmario Roveraro è scomparso, sparito dopo aver partecipato ad una riunione dell'Opus Dei nella centralissima Crocetta. La procura apre un fascicolo per sequestro di persone e dispone il blocco dei beni dell'imprenditore già presidente di Acros Finanziaria. Non preoccuparti, vado in Austria per affari, aveva rassicurato mercoledì sera al telefono la moglie Silvana, insospettita dal fatto che non avesse con sé effetti personali. Successivamente Roveraro chiede di smobilitare 1 milione di euro, ma le modalità non convincono i suoi assistenti, che non eseguono gli ordini e anzi la famiglia decide allora di presentare denuncia. Molti i testimoni già ascoltati dagli inquirenti che cercano di ricostruire quell'ultima sera, i suoi contatti ma soprattutto gli affari del finanziere, tra cui alcune recenti operazioni da approfondire. Ed è qui che si celerebbe la chiave di volta della scomparsa. Cifra e dinamica dei fatti per gli inquirenti non sarebbero propri di un sequestro a scopo di estorsione. Da quel momento Gianmario Roveraro sparisce nel nulla. Per giorni le notizie si intrecciano e non vi è conferma sulle sorti del finanziere, anche se gli inquirenti sono certi che Roveraro sia stato ucciso. Manca solo il suo cadavere. Luglio 2006. Viene ritrovato il corpo senza vita di Gianmario Roveraro. Il cadavere è tagliato a pezzi, nascosto in un casolare tra Solignano e Citernataro, a una 30 chilometri da Parma, lungo un terrapieno che costeggia l'autostrada A15. Un delitto efferato. Poche ore dopo scattano gli arresti. Filippo Botteri, consulente finanziario di Parma, confessa ai magistrati milanesi di aver organizzato il sequestro e l'omicidio di Gianmario Roveraro. Il punto centrale è un affare immobiliare nel quale Botteri ha investito 2,5 milioni di euro. L'affare sfuma per la diffidenza di Roveraro. Botteri non riesce a gestire l'operazione e perde i soldi investiti. Così Botteri, davanti a quel disastro finanziario, perde la testa e rapisce Roveraro per recuperare tutti i soldi perduti. ma Filippo Botteri non può aver agito da solo. Per rapire un uomo, tradurlo in una vettura, tenerlo segregato per qualche giorno, poi ucciderlo, bisogna avere dei complici. Gli inquirenti arrestano Emilio Toscani, di Collecchio, commerciante a Fornovo, e Marco Baldi, di circa 50 anni, nato a Bologna, ma residente a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Hanno aiutato Filippo Botteri nel delitto di Gianmario Roveraro. Toscani fa ritrovare il corpo del finanziere. Il nostro corrispondente da Parma, Pino Colombi, si collega a quel punto in diretta con Linea 24. È stato ritrovato il corpo nei pressi dell'autostrada A15 in un casolare denominato Case Bottini, un terrapieno, trovato appunto il cadavere di Gianmario Roveraro, un terrapieno al quale si accede attraverso una strada che parte dalla provinciale 308 e che collega i comuni di Fornovo Taro e Solignano, insomma in pieno Appennino. Gli autori del delitto sono tre persone arrestate all'alba di questa mattina dai carabinieri del ROS di Parma in un blitz concertato proprio per verificare il rapimento, e sono caduti nella rete Filippo Botteri, questo personaggio di 43 anni, Emilio Toscani, 43 anni, entrambi parmigiani, il secondo Emilio Toscani è un collecchiese ma residente a Fornovo, il terzo Mario Baldi, 50 anni, di Bologna ma residente a Modena. I tre hanno già confessato e all'origine di questa scabrosa vicenda un affare immobiliare si è risolto con la ritorsione. Sul luogo del ritrovamento erano giunti con grande celerità il capo della Procura di Parma, Geraldo La Guardia, e il PM Francesco Saverio Brancaccio. Il cadavere di Gianmario Roveraro, il 70enne finanziere, era ricolmo di bruciature. Per il giudice delle indagini preliminari di Milano, Guido Salvini, il 21 luglio 2006 si conclude un lungo lavoro investigativo. Gli interrogatori proseguono in un quadro positivo per la ricostruzione di una vicenda che purtroppo da molti giorni si è conclusa, come sapete, in modo tragico. Per il capo del RIS dei Carabinieri, Luciano Garofano, si tratta comunque di un delitto efferato e brutale. Certo, è indubbio che è un omicidio estremamente brutale. E in quelle ore il capo del RIS, Luciano Garofano, intende comprendere i ruoli delle persone arrestate, i moventi, le prove. Cercheremo tutte quelle tracce che ci potrebbero consentire di verificare le responsabilità e soprattutto poi capire i ruoli. Dopo la pausa torna il racconto del giallo e nero sulla morte del finanziere Gianmario Roveraro. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Il finanziere Gianmario Roveraro si trova dunque implicato in molti intrighi e inchieste giudiziarie. Nei giudizi sull'uomo si ricompongono le antiche fazioni, quelli che una volta avremmo definito accoliti della finanza bianca, secondo i quali Roveraro era un uomo di grandi intuizioni. L'innovatore che sdoganò i fondi comuni negli anni 70, facendo della SIGE un concorrente di Mediobanca. Quelli più laici, che vedevano nel finanziere Gianmario Roveraro un maneggione, spesso agganciato al carro politico e attore di operazioni dalle genesi o dagli esiti poco chiari, come la proposta di salvataggio di Federconsorzi, la cessione di Polenghi a Cragnotti, la quotazione della Parmalat di Tanzi. Riemerge una disputa classica, una querelle che Gianmario Roveraro aveva così definito nel corso di un'intervista. La finanza non è cattolica, né laica o massonica, è semplicemente finanza. Di sicuro era cattolico, di un cattolicesimo ortodosso, ed era anche legato alla Democrazia Cristiana, non vicino ad Ossetti, ad Andreatta. Gianmario Roveraro era piuttosto legato alla corrente Rigoria e all'Opus Dei, di cui era soprannumerario. Di queste appartenenze Roveraro ha lasciato ampie prove. La Fondazione RUI, che gestiva collegi universitari formati dalla prelatura dell'Opus Dei, la FAES, l'associazione con analoghi fini ma che spaziava per tutte le età scolari, a Milano l'Humanitas, prima pietra di un complesso ospedaliero. Gianmario Roveraro è dunque un membro autorevole dell'Opus Dei. Scrive l'organizzazione sul suo sito internet. L'Opus Dei, fondata nel 1928, è una prelatura personale della Chiesa Cattolica. La sua missione consiste nel diffondere il messaggio che il lavoro e le circostanze ordinarie sono occasione di incontro con Dio e di servizio nei confronti degli altri per il miglioramento della società. L'Opus Dei collabora con le chiese locali, offrendo mezzi di formazione cristiana, lezioni, ritiri, assistenza sacerdotale, rivolti a persone che desiderano rinnovare la propria vita spirituale e il proprio apostolato. Giuseppe Corigliano è direttore dell'ufficio informazioni dell'Opus Dei in Italia. Parla così poche ore dopo aver appreso della morte di Gianmario Roveraro. Conosciuto negli anni 70, e lui era già dell'opera e subito mi ha colpito per la sua grande gentilezza, naturalmente, e anche per il suo affetto alla famiglia, in cui in questo momento siamo molto vicini. E una persona gentile, proprio, forse potrei dire la persona più gentile che ho conosciuto, nello stesso tempo intelligente, desideroso di approfondire, desideroso di arrivare alla verità. Per questo allora anche si è trovato bene, credo, nello spirito dell'opera. E di un normale figlio di San José María Escrivá, quindi nell'Opus Dei non entriamo negli affari delle persone, mentre invece, ecco, sì, aiutiamo le persone a avvicinarsi a Dio. Intrighi e indagini giudiziarie lo vedono sempre protagonista. Il 3 giugno 1999 Gianmario Roveraro viene ascoltato dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federconsorzi. Il finanziere si interessa nei primi anni 90 della proposta di salvataggio della federazione. La società Akros è stata venduta nel 1988 e io l'ho lasciata a metà dell'87, quindi io non posso accedere, come dire, alle informazioni. Il suo coinvolgimento nella questione Federconsorzi, da quando e l'inizio, con quale oggetto, con quali interlocutori, con quali risultati per quanto la riguarda? Sì. Perché ci siamo occupati di Federconsorzi? Perché come banca d'affari ci occupiamo di molte cose, non tutte le cose di cui ci occupiamo poi portano, come dire, a una conclusione. Quindi noi fummo sollecitati sull'argomento da una persona che ci propose, ci chiese un nostro parere sulla parte finanziaria, non di un progetto ma di un'idea del rilancio dei consorzi agrari, e non si parlava della Federconsorzi, e ci chiese se, come persone che conoscevano il mercato finanziario, l'idea che stavano elaborando, attorno alla quale stavano pensando, potesse essere un'idea realizzabile sul mercato finanziario. Queste cose sono iniziate, come detto anche qui dal verbale, nella tarda primavera o estate del 91. Penso di ricordare i mesi di maggio-giugno o di giugno-luglio. Poi la cosa terminò verso la metà del 92, perché il tentativo nostro di vedere se per noi ci fosse uno spazio professionale risultò privo di fondamento, nel senso che comunque altri avevano preso delle iniziative, era intervenuto fra l'altro il concordato, come dire, preventivo chiesto per la Federconsorzi, e pertanto per noi non ci sarebbe stato nessun spazio di tipo professionale. Quindi lasciamo perdere l'argomento. Ma come si arriva a scoprire gli assassini del finanziere? Oggi sappiamo che le indagini sulla morte di Gianmario Roveraro sfruttano la potenzialità della tecnologia dell'informatica, l'intuito e il fiuto dell'investigatore, la forza della sua organizzazione. RACIS. Il raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche è la struttura preposta alle richieste di indagine tecnico-scientifiche dei reparti dell'organizzazione territoriale e speciale dell'Arma dei Carabinieri, della magistratura e delle altre forze di polizia. Nei casi più gravi e delicati, come l'omicidio di Gianmario Roveraro, il raggruppamento svolge anche attività di sopralluogo e repertamento sulla scena del crimine. Ci sono tre reparti. Addestramento, formazione e qualificazione del personale nel settore delle investigazioni scientifiche, analisi criminologiche, attività di supporto alle indagini mediante la ricerca di elementi di connessione, analogia, con altri fatti delittuosi e valutazione del profilo criminologico degli autori dei delitti, studi e ricerche sulle tecniche di esame della scena del crimine e alimentazione di una banca dati sui crimini violenti, tecnico, attività di sperimentazione e controllo di qualità. Dal raggruppamento dipendono 4 RIS, reparti investigazioni scientifiche, con sede a Roma, Parma, Messina, Cagliari. RIS, RIS, le tecniche di questi carabinieri specializzati sono tra le più d'avanguardia nel mondo dell'investigazione. Il maggiore Luigi Ripani, dei carabinieri. La nostra struttura nasce prevalentemente per effettuare accertamenti tecnici in laboratorio. Quindi abbiamo chimici, fisici, biologi, ingegneri e così via, personale a elevato profilo, ad alta specializzazione. Solo in casi particolari, di particolare gravità, eclatanza, veniamo chiamati sul luogo del reato. L'intervento sul luogo del reato è paradossalmente forse l'aspetto più importante di un'indagine, innanzitutto perché la possibilità di disperdere tracce, che sono quelle che poi ci dicono che cosa è successo, ci dicono che se è avvenuto o no un reato, chi potrebbe essere l'assassino e così via. La cosa fondamentale è l'intervento immediato sul luogo del reato. E da lì si può condizionare enormemente l'indagine, in senso positivo, purtroppo anche in senso negativo. Diciamo così, la tecnologia oggi mette a disposizione di reparti delle tecniche, della strumentazione sicuramente più sofisticata rispetto al passato. Ecco, da un lato abbiamo il tempo e dall'altro abbiamo la tecnologia, che hanno direzioni opposte. I carabinieri della RIS sono ormai abituati a trovare tracce sulla scena del delitto, ed è così anche per l'omicidio di Gianmario Roveraro. Luciano Garofano. Di fatto questa rivoluzione è sicuramente insita intanto nella grande disponibilità di reperti che noi troviamo sulla scena del reato. E questa disponibilità evidentemente non solo è fonte di numerose tracce, oggi ci consentono di arrivare a un profilo di DNA completo, ma è una disponibilità che nasce anche dal particolare stato emotivo che connota l'aggressore, e perché no, anche la vittima, nel senso che è praticamente impossibile che su una scena del reato un'azione accorta delle forze di polizia non consenta il ritrovamento di queste tracce. Alla fine sono i carabinieri a risolvere il caso dell'omicidio di Roveraro. Le telefonate realizzate da Gianmario Roveraro non presentano alcun numero chiamante. Sono tutte dirette ai familiari. Intervengono così gli uomini della squadra indagini telematiche del ROS dei carabinieri. Inizia la ricerca a ritroso, nel corso del tempo. 3 schede SIM vengono acquistate al centro commerciale Grande Miglia di Modena il 6 giugno 2005. Le stesse schede vengono inserite in alcune cabine telefoniche dell'Autostrada del Sole tra Parma e Milano. È il 5 luglio 2006, il giorno della scomparsa di Gianmario Roveraro. Intorno all'abitazione del finanziere, le schede si parlano tra loro. I dati vengono incrociati. Si individua la zona da dove partono le chiamate. Si arriva a Botteri, Baldi e Toscani. Al resto pensano le intercettazioni telefoniche e ambientali. La nostra Raffaella Calanda legge le carte, i documenti degli inquirenti, in modo minuzioso, in modo attento. Parte dalle intuizioni degli investigatori e giunge a formulare una domanda. Un dubbio rimasto ancora senza risposta, ancora oggi. Gli inquirenti lo temevano da giorni, la conferma quando uno dei presunti assassini li conduce nelle campagne di Fornovo. Lì viene trovato il corpo straziato di Gianmario Roveraro, il finanziere milanese scomparso il 5 luglio, tra le persone fino ad ora arrestate. Dilettanti che, rendendosi conto di non poter acciuffare il bottino, ricostruisce un investigatore, uccidono l'ostaggio. Ho perso la testa, confessa Filippo Botteri, l'ideatore del rapimento. I 3 complici si rimpallano le responsabilità, ma ammettono che questo doveva essere un sequestro a scopo di estorsione per rientrare dei 2,6 milioni persi da Botteri in un affare rovinoso propostogli da Roveraro. Lui, consulente parmigiano, cerca di accreditarsi nei giri del finanziere milanese e per questo accetta quell'operazione immobiliare considerata l'origine di tutto. Avrebbe dovuto fruttare 24 milioni di dollari attraverso la società anglo-austriaca di un soggetto poco raccomandabile, scrive il GIP, tale Franco Todescato, già in carcere per riciclaggio. Botteri aderisce alla cieca, si indebita, solo dopo un anno conosce gli altri soci, Maffei e Gnudi, poco affidabile, dice, così quando l'affare sfuma minaccia Roveraro. Maledetta quella volta che ho cominciato quell'operazione, esclama, ma dopo il tragico epilogo la domanda ancora insoluta è: perché un finanziere come Roveraro, vicino all'Opus Dei, fa affari con personaggi così? Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.